La stessa, diciamo, struttura, nel senso che ascolteremo il professor Berengo per una prima relazione, poi dopo un breve intervallo ci sarà la discussione e la ripresa poi dei lavori al pomeriggio con il secondo round, seguendo le medesime modalità. Devo solo, come di consueto, ecco, riferire la partecipazione del Presidente della Regione, ecco, che saluta il professor Berengo e si scusa dell'assenza, e l'assenza del professor Rainer, il quale avrebbe desiderato essere presente ma è impossibilitato per altri motivi e quindi ci ha mandato i suoi saluti da Innsbruck. Ecco, detto questo, senza formalità, l'argomento su cui oggi sono venuto non tanto a parlare quanto a proporre un confronto di idee, una conversazione, non è un argomento che io abbia già, diciamo così, esaurito o preparato per un'elaborazione definitiva. È però un argomento che attraverso tutto un succedersi di riferimenti e di richiami ritorna da molti anni nei miei interessi di storia sia della cultura e della società asburgica, sia di quella lombardo-veneta. Il problema, cioè, della durevole presenza di gruppi di funzionari e di intellettuali che si richiamavano senza mediazioni, cioè direttamente, ad una cultura ed una provenienza nazionale e ad una consapevolezza nazionale tedesca, che si sentivano tedeschi. In questa stagione, in questo momento in cui sentirsi tedeschi o sentirsi italiani sta assumendo una carica ed un segno di cui appunto merita riprendere la discussione. Quindi alcune delle cose che ora vi dirò sono più delle proposte di ricerca che non degli elementi di fatto o dei convincimenti di cui già io mi senta certo. E se questo non darà forse a voi, anzi non darà purtroppo a voi, quella certezza di conclusioni di cui avreste diritto, dato il tempo e la cortesia che mi dedicate, servirà però a me per chiarirmi le idee, tanto più che vedo in giro persone che su questi argomenti sono straordinariamente agguerriti. E anzitutto dunque il problema da cui conviene partire quando si parla di funzionari austriaci e tedeschi nel Lombardo-Veneto, nell'Italia austriaca, è un problema preliminare, stabilire chi in questa stagione è ed è sentito tedesco, chi si sente tedesco e chi l'opinione pubblica dei sudditi italiani sente e percepisce come tedesco. Il problema, cioè, problema che riguarda quella grande fascia intermedia di uomini della generazione che si era fatta matura tra il 1780 e il 1800 circa, e anche più giù forse 1810, ma non più in là di questa data, per cui non sarebbe stato semplice e quantomeno non era univoco stabilire quale era la sua nazione. Dalmati, trentini, istriani, quelli che ambiguamente venivano chiamati tirolesi, o altri ancora che erano immigrati o figli di immigrati francesi, uomini trilingui, lorenesi di origine come il Frimont, che scriveva indifferentemente in italiano, in francese o in tedesco, e che la popolazione di Verona percepiva e recepiva come tedesco. Questa fascia di cui sono casi limiti, diciamo, questi uomini che potevano forse sentirsi apolidi, questi francesi de Racine che poi crebbero e morirono al servizio dell'impero 40, 50, 60 anni più tardi, dopo il 48. Ma certamente da un punto di vista proprio regionale esistette quest'ampia fascia costituita dalle popolazioni delle province di confine che, la cui nazionalità era diversamente recepita secondo il maturare di una diversa situazione storica e politica. Una fascia che si è praticamente poi sciolta, che ha operato le sue scelte, che è stata costretta ad operarla e la cui situazione è per noi difficile da ricostruire, no? Un discorso di tipo diverso, ma pure interessante da riprendere, è quello di popolazioni, di uomini nati e cresciuti in una fascia geograficamente opposta al confine contrario dei domini asburgici, gli ungheresi, o i boemi, o i pochi boemi rimasti di cultura e di formazione ceca, no? Non tanto i sudeti, ma proprio i boemi di Praga, sentiti certamente come tedeschi in Italia, ma non certo sentiti come tedeschi a Vienna, non certo sentiti come tedeschi a Graz. Un ungherese potrà, tra il 47 e il 48, e lo vedremo subito, suscitare sentimenti di affinità e di fratellanza a un italiano, ma quando giunge come delegato di Udine nel 17, un ungherese la cui lingua di cultura e la lingua amministrativa è il tedesco, è sentito come tedesco. Questo problema dunque di stabilire anzitutto, quando parliamo di tedeschi in Italia, chi è tedesco. Ora, quando per esempio un trentino, a voi tutti ben noto, Paride Zaiotti, scrive in una importante lettera ad Acerbi nel 17 che la sua collaborazione alla Biblioteca Italiana può essere utile perché parla il tedesco, afferma la conoscenza di una lingua straniera, cioè non afferma un ovvio bilinguismo della regione da cui proviene, come farebbe oggi, poniamo, un basilese colto che è automaticamente trilingue. Lui è un funzionario imperiale di lingua italiana che sa perfettamente il tedesco, ma non è l'evidenza che lui comunica ad Acerbi del fatto che è evidente che questa lingua è anche la mia, no? Ecco, un personaggio che io ho conosciuto attraverso l'ottimo lavoro del Collini, che fece una tesi che purtroppo non è ancora pubblicata, ne parlavo prima con Prodi, è un lavoro estremamente importante, protrattosi parecchi anni, inutile che io parli a nome suo, perché poi lo farà lui quando discutiamo, ma è un caso importantissimo, perché Mazzetti è uomo che impara il tedesco tardi. E poi, e nella sua formazione, e nella sua opera, e nelle sue ispezioni, continuerà a sentirsi di lingua e di formazione italiana, ma in modo diverso da come era in giovinezza, no? Proprio con una serie di cooptazioni che non sono le acquisizioni che può avere oggi un uomo di cultura che fa, poniamo, il germanista o il francesista, se è italiano, o un italianisan francese. È un altro tipo, no? È un altro tipo di integrazione. Ecco. Mentre invece, se è chiaro che Zaiotti e che Mazzetti sono dei funzionari italiani al servizio imperiale, che, e ora vedremo perché, Ranieri e non solo Sedlinski e Metternich, non solo le ali più repressive e chiuse del vertice di governo, del governo imperiale, ma anche un uomo che merita di essere giudicato diversamente, come il viceré Ranieri, ritengono indispensabili e perfettamente funzionali ai modi in cui il governo asburgico può operare le province italiane, Carlo Giusto Torresani Lansfeld è un caso diverso. Nel caso di Torresani, dire tout court che è italiano è meno semplice. Prendiamo un caso di questo tipo, no? Carlo Giusto Torresani Lansfeld nasce certamente in area di lingua italiana, nasce a Kles nel 79, è figlio di una nobile trentina, una famiglia indubbiamente di cultura, di lingua e di formazione italiana, i De Vigili di mezzo lombardo, non ci sarebbe da discutere, ma studia a Vienna, studia giurisprudenza a Vienna, nel 1801 è capitano e combatte a servizio imperiale, nel 2 ecco un caso importante che poi riprendiamo, l'intercambiabilità. Nel 2 questo laureato in giurisprudenza è ufficiale, passa nella polizia, diventa aggiunto di polizia in Tirolo. Quando c'è l'occupazione bavarese del Tirolo non accetta di cambiare governo e passa a Salisburgo, sempre nella polizia. Poi è alla Polizeihochstelle a Vienna, la direzione quella che poi sarà la direzione centrale, dal 9 al 13, no? Vi avverto che non vi bombarderò di date per tutti i funzionari, state tranquilli, no? Questo è un caso limite. Poi segue come commissario, ecco, poi segue come commissario civile l'Armata d'Italia. Ecco che allora questo uomo, che non era più disponibile nella scena italiana, quando rinasce il problema della diramazione e del recupero dell'area italiana da parte dell'impero asburgico, ecco che il Torresani è l'uomo della situazione. E poi verrà usato, e questo sarà uno dei punti caratterizzanti di un certo modo austriaco di governare l'Italia, sarà sentito come intercambiabile fra il compito di delegato, cioè di prefetto, e quello di commissario di polizia. Una cosa che nell'età teresiana non si sarebbe potuta concepire, che in questa età di restaurazione diventa una delle connotazioni di governo. Nel 15 a Treviso, nel 16 è a Udine, come uomo di fiducia da loro direttamente raccomandato. Noi abbiamo proprio il dossier della carriera di Torresani, prima da Hager e poi da Sedelinski, cioè dai due ministri di polizia e censura, non dimettervi, no? Nel 19 non avrà la successione della direzione generale di polizia a Venezia, dove sarà mantenuto un tristino di lingua tedesca che non sa l'italiano, il Rab. Il Rab è un tedesco nato a Trieste che sa malissimo l'italiano, è un alloglotta, non è uno di quei tristini di lingua e di famiglia tedesca che sia bilingue, questo sa solo il tedesco, no? Abbiamo una serie di indicazioni, questo non è un assimilato, è uno di quegli innesti. Però nel 22 verrà nominato direttore generale di polizia a Milano, con l'esplicita dichiarazione che rispetto al più anziano di polizia che operano a Milano, il Giulio Pagani, appoggiato perché fratello di vescovo, eccetera, è tedesco. Questa è la motivazione che viene data. E ora vedremo perché questo tipo di qualifica tedesco, più precisamente Österreicher, giova, mentre in altre circostanze non giova. Per un altro tipo di impiego, e lo vedremo proprio subito, per un altro tipo di impiego costituisce un elemento di subordinazione essere tedesco, non, essere austriaco e non italiano. In questa subordinazione può aver giocato anche un altro elemento. Il Pagani, che era il suo concorrente, era chiaramente indiziato per aver avvertito Confalonieri che stavano per arrestarlo. Confalonieri non volle fuggire, volle essere arrestato, ma Confalonieri è prova certa e provata, e Sedlinski lo sapeva, perché sono documenti già pubblicati da Giussani, Sedlinski lo sapeva che Pagani aveva fatto questa operazione per una sua certa commissione e compromissione con l'alta aristocrazia milanese. Quindi può essere che qui la scelta nazionale non sia stata così esclusiva e priva di remore, ma certamente questa motivazione ci fu, e su questa motivazione noi ci dobbiamo soffermare. Ecco, il caso di Torresani è per noi un caso importante, è per noi un caso interessante, perché questo che fu uno degli uomini più efficienti al servizio imperiale, e forse l'uomo più odiato in Lombardia, l'uomo forse peggio visto. Non credo che nessuno abbia realizzato su di sé neanche il conte Sarrau, neanche il conte Hartig, un cumulo di impopolarità come fece questo intelligentissimo e lucidissimo poliziotto, e coltissimo poliziotto, che non era necessariamente solo un poliziotto. Per quello che si vede, a Udine lui diresse magistralmente l'amministrazione del Friuli durante il suo breve compito di governo, cioè l'immagine dell'uomo di polizia e quale si configura in questi anni, che è grossa questione, no? In questi governi prussiano, austriaco, eccetera, ha uno dei suoi momenti di sedimentazione e di caratterizzazione più importanti, sui quali veramente meriterebbe fare molta luce, insomma. E per fortuna sulla polizia asburgica abbiamo fonti straordinarie. Abbiamo Alfred Fassungar, i fascicoli personali di ogni funzionario di polizia, con tutte le sue suppliche, richieste, quindi è un grande lavoro che si può fare e fare relativamente in modo agevole. Io però non l'ho fatto, Allo stato di progetto ho visto 2 o 3 funzionari, ma... Ecco, nel momento in cui appunto Strassoldo prende il potere, viene indicato come austriaco. Probabilmente, se gli si fosse chiesto se era italiano o se era austriaco, Torresani non avrebbe accettato di stare a una distinzione di questo tipo, avrebbe risposto che era al servizio imperiale. Si sentiva austriaco di servizio e di vocazione, non si poneva certamente un problema di un'alternativa di nazionalità. È un tipo di tematica che si sta formando in quel momento, ma che gli impedirebbe, qualora se lo ponesse, di svolgere il servizio come egli sentiva di dover fare. D'altronde, entrando in questa carica, l'uomo da cui è destinato presto a dipendere, che sarà governatore dello Stato di Milano, è l'unico governatore delle province lombarde, è l'unico governatore della Lombardia che abbia un nome italiano. È il conte Giulio Strassoldo, un goriziano. Strassoldo si sentiva tedesco. Lo dice all'imperatore, nelle sue bellissime relazioni sullo spirito pubblico lombardo. Lo Strassoldo diviene governatore ed è stato prima direttore generale di polizia. Ecco un caso ancora più importante di intercambiabilità tra polizia e amministrazione civile. Lo Strassoldo scrive in un faticoso italiano, mentre l'italiano di Torresani è perfetto. Torresani è certamente un bilingue, purtroppo non possiamo più sentire la voce di questi uomini, per noi sarebbe molto interessante, ma abbiamo degli echi. Lo Strassoldo è un tedesco. Lo Strassoldo è un tedesco di una delle più antiche famiglie, della feudalità goriziana, il paese appunto di Strassoldo, certamente è sotto ogni riscontro e riguardo, anche qui potremmo percorrere la sua carriera, è sotto ogni riscontro e ogni riguardo un tedesco non bilingue, un tedesco per cui la lingua italiana è una lingua straniera. Ora, quando noi guardiamo le carte della Restaurazione, le carte pubbliche della Restaurazione, vediamo usato di continuo il termine di tirolese per indicare un tipo di funzionari che riuscivano, assai graditi, che riuscivano indispensabili, che riuscivano gli uomini del momento, gli uomini della situazione di cui si sentiva il bisogno per amministrare bene questo paese. E che venivano chiamati tirolesi nelle fonti italiane e senza questa distinzione austriaci, österreicher, nei documenti di vertice, nei documenti della commissione aulica di organizzazione presieduta dal conte Procopio Lanzanski e nella corrispondenza, nella importantissima corrispondenza fra Ranieri e il fratello imperatore. Stralciamo un breve brano, esaminiamo un breve passaggio straordinariamente indicativo della prima delle grandi relazioni che Ranieri manda al fratello imperatore nel 1816 e nei Kaiser Franz Akten, no? e nelle carte di Francesco I. Ranieri, quel vicere che il cosiddetto vicere di Monza, questo uomo restio che non aveva quella facilità di approccio che avrà il nipote Massimiliano dopo il 48 e che fu giudicato senza simpatia dai suoi sudditi italiani, non aveva certo quella capacità di seduzione e di comunicazione che avrà Massimiliano. Ma in fondo, quando però noi leggiamo tutto il copioso materiale che questo uomo di poco potere, di poca ambizione, questo uomo cui non piaceva governare e che si ritirava in villa e che interveniva il minimo necessario nelle pratiche decisionali e su cui forse nei momenti decisionali e su cui forse si condensò un giudizio di ripulsa e negativo dovuto al suo rifiuto di farsi parte dirigente dopo quei processi del 21 che spaccarono in misura forse non più sanabile ogni possibilità di effettivo commercio tra l'alta nobiltà lombardo-veneta e la corte di Vienna. In quel momento Ranieri non intervenne, mentre certamente sarebbe intervenuto in situazioni analoghe ed intervenne Massimiliano non avrebbe perso un'occasione di questo tipo per mediare. Ranieri non lo volle fare e Ranieri in altro riscontro, in altra circostanza, contrariò profondamente l'alta nobiltà dando una battaglia che per noi è una battaglia anzi di segno progressivo contro l'opposizione delle congregazioni centrali e delle congregazioni provinciali a composizione e a prevalenza aristocratica per il catasto. Le congregazioni centrali si preoccuparono di bloccare in ogni modo il catasto che la giunta centrale del censo, presieduta dal viceré e vicepresieduta da Francesco Mengotti, voleva fare e che ledeva manifestamente gli interessi della grande proprietà fondiaria. E Ranieri condensò in quell'occasione sul suo capo una grandissima impopolarità. Ma era uomo che sapeva molto, molto comprendere e mediare. Era uomo che combatté giorno per giorno ogni tentazione di condurre una politica etnica compressiva delle autonomie linguistiche nazionali. Un uomo di poco potere, quando passava in carrozza i Monelli, voi lo sapete, no? Gli cantavano la strofa «Farò, vedrò, dirò, farò quel che potrò». E poteva poco. Interveniva poco, vedremo ora quando parleremo della politica culturale, forse questo pomeriggio, della politica scolastica, come intervenne, con quanta forza e intelligenza, con una capacità anche di rottura e di scontro con i funzionari del vertice austriaco a proposito del numerus clausus nelle università italiane e della funzione che potevano avere gli intellettuali scontenti, i giovani intellettuali scontenti. Lo vediamo poi. Nel 16 però Ranieri dà dei giudizi duri, dà dei giudizi, possiamo chiamarli duri o possiamo chiamarli perplessi, sulla possibilità di utilizzare gli italiani e sull'opportunità di utilizzare in alcuni settori i tedeschi. Qui dice Deutschen, non dice Österreicher per alcune cariche. Parla anzitutto del conte Saurau, il governatore che è succeduto a quel maestro di fair play che era il savoiardo Bellegarde, governatore provvisorio della Lombardia dopo la conquista, uno appunto degli emigrati, uno appunto di quei dei Rassinè passati e poi morti al servizio imperiale con un estremo senso del juste milieu, con un'estrema esigenza di mediazione. Di Saurau Ranieri scrive: è molto poco opportuno nel parlare, fa sempre dello spirito sugli italiani e pubblicamente si prende beffe di loro e si comporta molto grob, molto sgarbatamente. No, grob. Sì. Grossolanamente. Rozzamente. Rozzamente, sì, rozzamente. Tutte queste malagrazie e mancanze di garbo, lui le commette in cose alle quali gli italiani danno molto senso e a Milano lo hanno reso assolutamente odioso. Zerferhast. Quindi, come si comporta Saurau ha degli inconvenienti. Non è che il funzionario austriaco debba comportarsi come fa Saurau. Qui c'è l'immediato e tacito richiamo all'opposto modo in cui si comportava Bellegarde. Anche Bellegarde governava in nome dell'imperatore. Però Bellegarde non sarebbe stato così poco cortese, così grosso. Il problema è che noi qui, nell'impiego degli italiani in certe cariche, abbiamo dei problemi. La giustizia non si può far amministrare dai funzionari di origine napoleonica perché non la conoscono e non sono disposti ad applicarla. La disponibilità di alcuni consiglieri tedeschi, Deutschen, non Österreichen, al loro fianco sarebbe da desiderare. Ma perché se no qui commettono ogni sorta di errori. Bisogna quindi attingere tra i funzionari tedeschi o veneziani. Questo veneziani vuole dire funzionari che abbiamo formato noi tra il 1798 e il 1806. Ma qui veneziani vuole forse anche dire istriani, vuole forse anche dire trentini. Non è necessariamente riferito ai pochi, perché io avevo pensato che si riferisse ai funzionari che hanno operato a Venezia, ma sono talmente pochi. I veneziani, divenuti funzionari austriaci, rimasti tali e non passati al servizio imperiale come Mengotti, che non credo che si riferisca a questo. Questi giudici, che sarebbero tre o quattro, sono probabilmente appartenenti a quella fascia di cui prima si parlava, a quella fascia di confine di cui prima si parlava. E dice, per la polizia chi dobbiamo impiegare? E questa è una connotazione che rivela la formazione asburgica e la certezza che la polizia ha una funzione sulla quale non si può poi fare troppo i leggeri, i disinvolti, ma anche la grande misura umana di quest'uomo. A queste segrete funzioni, soprattutto, è assolutamente impossibile adibire degli italiani. Perché l'italiano nel suo carattere non è assolutamente in condizione di tenere per sé un segreto. Questo a Milano, der Italiener seinem Charakter nach nicht imstande ist, ein Geheimnis für sich zu behalten. Dunque, e questo a Milano si verifica in una tale misura che il giorno prima si racconta in tutti i caffè quello che il giorno dopo, segretamente a porte chiuse, verrà dibattuto in consiglio, senza che sia assolutamente possibile mettere le mani su chi è andato a spifferare tutto. Questo è un certo tipo di discorso, cioè la polizia, che per sua natura è segreta, non è affidabile agli italiani. E qui, di nuovo, dobbiamo cercare di capire cosa si intende per italiener, perché quei venezianer che prima andavano bene, bisogna caso per caso, attraverso una ricerca biografica, stabilire chi erano. Cosa si intendeva? E questa è una cosa che io vi posso proporre come problema, sulla quale ho qualche mio convincimento, ma si va male a dire che Torresani è austriaco e che Zaiotti, che pure di studi ha studiato a Bologna, ma insomma è pure un bilingue, è italiano. Quindi se dobbiamo dirlo diciamolo, ma la cosa va, la cosa va ponderata, perché sono situazioni ricchissime di sfumature, di bivalenze e di volute ambiguità. Polizia, dunque. Ricchi, per la polizia, dunque, diceva Ranieri, Deutscher. Scrive proprio Deutscher con la D. Oppure non parla di austriaci, quindi non ne fa una questione tecnica, ne fa una questione di sicurezza. Ne fa una questione di fidatezza.